Buongiorno a tutti e tutte, sono le 10.31 di mercoledì 25 marzo 2015, siete all'ascolto delle libere frequenze di Radio Onda Rossa e per la prossima ora vi accompagnerà la trasmissione a cura del collettivo universitario Sapienza Clandestina, che tutti i mercoledì dalle 10.30 alle 11.30 su queste frequenze prova a raccontare le lotte che si danno dentro il mondo della formazione, dentro le scuole e dentro le università. Nella puntata di oggi vi parleremo di diversi argomenti. Inizieremo come tutti i mercoledì con una piccola rassegna stampa delle notizie che riguardano l'università, in particolare l'Ateneo Romano della Sapienza. Questa settimana c'è un'inchiesta particolarmente interessante che è uscita sull'Espresso, che parla di un personaggio molto rilevante dentro l'Ateneo Romano. Quindi andremo a sentire, come appunto anche questo facciamo spesso, gli studenti medi romani, in particolare del liceo Virgilio, che proprio in questi giorni stanno affrontando cosa significa Expo anche a Roma. Quindi nella loro scuola hanno provato a chiamare un'assemblea e pare che proprio per il fatto che la loro scuola sia stata accreditata come diciamo luogo simbolo, scuola simbolo a Roma per la vetrina di Expo 2015, pare che abbiano proprio dei problemi su un'assemblea che cittadina che volevano chiamare nella scuola, e quindi le andremo a sentire proprio perché per la gravità di questa vicenda, chiaramente. E quindi proveremo a collegarci con i compagni del collettivo universitario autonomo di Bologna, che da diverse settimane stanno portando avanti una campagna di autoriduzioni contro il caro cultura, quindi di autoriduzioni nei teatri e per le mostre. Questo dopo diverse altre campagne, fra cui le autoriduzioni nelle mense, che sia a Bologna che in altre città si portano avanti. Quindi proveremo anche a dare voce a questa campagna molto interessante che i compagni e le compagne nell'università di Bologna stanno costruendo da diverse settimane. E a questo punto vi proviamo a lasciarvi alla nostra sigla, anche se abbiamo qualche problema tecnico, vediamo se ci riusciamo. E no, probabilmente la sentirete più tardi. Ora vi lasciamo di nuovo a un po' di altra musica e ci risentiamo a breve. Visto che ci sembra un po' brutto iniziare senza la nostra sigla, scusate un po' la brusca interruzione musicale, ma ora è disponibile, quindi vi lasciamo alla nostra sigla. Mi muovo nella notte piena in faccia al cielo, dove nessuno mi conosce per davvero. Imparo a essere cattivo perché devo. La meschinità mi accerchia, io spingo col pensiero. Va bene che non vado a mettere le bombe, va bene che non sputo sulle vostre tombe. Lotto con me, per primo, ogni uomo ha un motivo per svegliarsi il mattino e mettersi in cammino. Mi muovo, nella notte piena in faccia al cielo, e cresce il desiderio e il veleno. Davanti le vetrine dell'impero, tranne mosse in mano e ti prendono sul serio. Ancora un giorno passa, a cascia di denaro. Non rido a essere trattato come schiavo. Il mio vestito è nuovo, ma resto il bastardo che ero. Senso dello Stato uguale zero. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda, di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, prima in Goia, seconda ancora in Goia. C'è sempre un motivo per andare in paranoia. Se vuoi morire muori, niente di male. Per quanto mi riguarda, sono a caniva a vivere a volare. 10 anni di storia spingo ancora. Rappresenta assalti frontali prima ora. Questo non è il mondo dei pari. E faccio paragoni per capire perché non viviamo da uguali. Ora basta troppe canne, cattiveria ci vuole. Spingo il mio valore, niente rassegnazione. Un terminale muore in prigione. Per l'illusione che nessuno provi più a rubare. Mi hanno interrotto i sogni, bandito. Mi muovo coi fratelli, un occhio all'immediato, uno all'infinito. Ci sarà per noi un angolo pulito. In un mondo di mercanti dove il meglio l'ho rubato. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda. Di fronte a tanta merda, vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda. Di fronte a tanta merda, vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda. Di fronte a tanta merda. Buongiorno a tutti e tutte, sono le 10.39, inizia una nuova puntata di Sapienza Clandestina qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo appunto elencato i vari argomenti della giornata della puntata di oggi. Iniziamo dall'Ateneo che frequentiamo tutti i giorni, che è la Sapienza, dove all'inizio di questa settimana è uscita un'ennesima inchiesta, come ricordavamo, sull'Espresso, che parla dello scandalificio che è la Sapienza. In particolare in questa settimana ci si sofferma sul direttore generale Carlo Musto D'Amore, che viene etichettato come uno dei grandi manager che popolano questo paese, che non si capisce bene con quali criteri meritocratici sia arrivato fino a questo punto e a dirigere un ateneo grosso come la Sapienza. Tutta l'inchiesta dell'Espresso appunto viene incentrata su una serie di cavilli in qualche modo che riguardano la vita, la storia del nostro direttore generale, che assume un ruolo di rilevanza dal 2001, quindi ormai 14 anni fa, e che ancora oggi, nonostante la pensione, viene tutti i giorni a lavorare nel nostro ateneo e a gestire appalti e gestione in generale della Sapienza. Ovviamente da un certo tipo di toni che vengono usati da questa inchiesta noi ci discostiamo, innanzitutto quello per il quale una persona che non è laureata non possa accedere a un certo tipo di lavoro o così via, ma pensiamo che sia emblematico come anche un'inchiesta giornalistica di Repubblica, L'Espresso, possa in qualche modo mettere alla luce dei fatti che sono particolarmente importanti e che secondo noi sono anche particolarmente dannosi per quella che è la gestione del nostro ateneo. Da anni come studenti e studentesse denunciamo quella che è la gestione delle risorse non solo del nostro ateneo, a partire sicuramente da tutte le vicende che nelle ultime settimane hanno riguardato la gestione di alcune facoltà, lo scandalo che c'è stato intorno all'obitorio di medicina legale e la nuova campagna che viene fatta nelle aule studio dentro l'università e così via. Quando parliamo di direttori generali dentro l'università, parliamo di veri e propri manager aziendali che poco hanno a che fare con la didattica, poco hanno a che fare con quelli che sono i bisogni degli studenti, ma che hanno molto più a che fare con il loro portafoglio, il portafoglio dei loro amici e in generale su come devono entrare e uscire i soldi dentro a quest'ateneo. Se pensiamo che negli ultimi anni gli studenti iscritti alla Sapienza sono diminuiti in maniera consistente, se pensiamo che il diritto allo studio è sempre più negato, le borse diminuiscono, sono sempre di più i famosi idonei non vincitori, quindi coloro che per parametri dovrebbero rientrare all'interno delle liste del diritto allo studio per borse di studio o per anche alloggi per gli studenti, e sono sempre di più quelli che invece rimangono senza niente in mano, mentre la crisi per direttori generali e grandi amministratori degli atenei sembra proprio non esistere. Sì, è particolarmente interessante questa inchiesta, in realtà segue ad un'altra che avevamo già citato mercoledì scorso, sempre sull'Espresso, da una serie di articoli che comunque a cadenza mensile sui quotidiani e sui siti dei mezzi di informazione mainstream escono, in particolare sull'Università della Sapienza. Chiaramente a noi, diciamo, in qualche modo non basta sicuramente l'aspetto scandalistico e l'aspetto della condanna della corruzione, sicuramente da subito chiaramente non vogliamo avallare la logica delle mele marce, per cui un personaggio come D'Amore, tra l'altro messo in croce principalmente secondo il sistema appunto vigente, la sua mancanza di credenziali per ricoprire quel ruolo. Invece probabilmente ci rendiamo conto che è proprio il personaggio giusto per quel ruolo, rispetto a come funzionano le università e rispetto al senso che queste università possono avere. In seguito a questa all'inchiesta abbiamo prodotto anche un testo di ragionamento che trovate sul nostro blog, dove proviamo a prendere un po' parola su questi avvenimenti che tra l'altro proprio leggiamo questa inchiesta che leggiamo a seguito dello scandalo che è avvenuto anche rispetto al ministro delle infrastrutture Lupi a Incalza e al sistema delle grandi opere. E il nostro ragionamento quindi su questo articolo che abbiamo prodotto è proprio che la Sapienza è essa stessa una grande opera, nel momento in cui queste logiche e questi meccanismi che ogni tanto escono fuori del mondo della politica, legato agli appalti, legato ai servizi sui territori, legato alle emergenze che vengono create ad hoc, come quella abitativa, come quella dei migranti, in qualche modo sono gli stessi meccanismi che vivono dentro gli atenei, soprattutto atenei grandi come la Sapienza, dove girano un sacco di soldi, dove ci sono tantissime strutture, tantissimi servizi da garantire a un numero enorme di utenti. E quindi chiaramente un grande numero di soldi pubblici che devono essere gestiti da un personaggio come D'Amore, che oltre a non essere laureato basta penso indagare un attimo tutta la famiglia assunta dentro la Sapienza e qualcuno dentro altri atenei italiani dove ha lavorato, aveva rapporti con l'ex rettore, ha rapporti stretti anche col nuovo rettore che c'ha il figlio di D'Amore insomma all'interno di medicina e legato al rettore Gaudio. Ma chiaramente come diceva Dario, nonostante sta in pensione continua ad essere pagato, gli hanno rinnovato un contratto nel settore pubblico che non, appunto penso che tanti ascoltatori e ascoltatrici sapranno che non è facile oggi farsi rinnovare un contratto a 4 anni, lui ci è riuscito a 200.000 euro l'anno, quindi anche sicuramente un buon contratto. Ma quello che sull'articolo dell'Espresso non esce fuori è in realtà il volto, cioè il lato più forte della questione, cioè che cosa gestisce nella materialità un personaggio come D'Amore dentro un ateneo come la Sapienza. Ad esempio gestisce le gare d'appalto per quale cooperativa esternalizzata gestirà ad esempio le pulizie dentro l'università, quindi parliamo di centinaia di lavoratori, alla Sapienza sono almeno 300 se non di più contando tutte le sedi esterne, e quindi delle gare d'appalto per milioni e milioni di euro se contiamo la gestione di un servizio del genere e tutti i lavoratori che ne conseguono. Alla Sapienza noi abbiamo portato avanti da tempo battaglie insieme ai lavoratori contro le condizioni di sfruttamento che subiscono, e loro stessi ci hanno raccontato di chi è D'Amore. Appunto noi lo conosciamo da tempo questo personaggio, prima dell'inchiesta dell'Espresso lo conosciamo in primis per le battaglie fatte con chi subisce le gare d'appalto e la gestione dei soldi dentro l'Università La Sapienza. Infatti le gare d'appalto sono tutte gare d'appalto portate avanti al ribasso, dove vince sempre l'azienda che fa il preventivo più economico, che significa i lavoratori che non vengono pagati, la sicurezza sul posto di lavoro ridotta al minimo. E poi un altro dato di colore è quello che dei servizi della Sapienza è quello della guardiania armata, che la security della città universitaria 24 ore su 24, che è appaltata all'azienda Sipro, un'azienda che è uscito fuori giusto un paio d'anni fa i legami del capo della Sipro con, si dice, alla banda della Magliana, insomma, senza dare troppo adito a questi folclorismi che magari sono anche veri, però insomma sicuramente è un personaggio che poco limpido, anch'esso a capo di una cooperativa, di un'azienda messa a gestire un servizio della Sapienza. Ma ancora più simpatico è vedere come pochi giorni dopo l'esplosione dello scandalo su Incalza, sulle grandi opere, è uscita fuori l'intercettazione del ministro Lupi, chiamato da Gangi, che è proprio questo capo della Sipro, che gli proponeva nelle giornate dopo il 19 ottobre del 2013, dove c'era una tendopoli di fronte al Ministero delle Infrastrutture, gli proponeva come servizio la possibilità di mandare 200 dei suoi uomini a ammazzare, per testuali parole, tutte quelle persone che stavano lì a occupargli la piazza e a rompergli le scatole a Lupi sulle sue politiche, e quindi anche sulla mafia delle grandi opere e degli appalti, di cui sicuramente il signor Gangi non è esterno. Quindi è un quadro abbastanza simpatico in cui, diciamo, dando per scontato tutte le cose che sono state dette prima, quindi lo stato in cui è l'università oggi, quindi grazie alle riforme portate avanti da governi di cui i personaggi sono gente come Lupi, gente come quella coinvolta dentro Mafia Capitale, le riforme hanno definanziato tantissimo l'università, quindi lasciando sicuramente spazio sempre di più a un'ingerenza dei privati, delle aziende, quindi a spazio a meccanismi di questo tipo, che poi avvengono anche con i fondi pubblici. Non c'è bisogno di lasciare tutto in mano ai privati per trovare appunto dei meccanismi di questo tipo. Però questa in qualche modo desertificazione dell'università va di pari passo con la voglia comunque di tenerla un minimo viva, nonostante sia, infatti uno si chiede ogni tanto, ma perché queste università sempre più definanziate, che non danno nessun tipo di sbocco lavorativo a chi guadagna la laurea e via discorrendo, perché continuano, cioè, diciamo, che ruolo hanno dentro questa società, che ruolo hanno per chi ci governa soprattutto? Probabilmente non è soltanto quello di iniziare a far capire alle persone che dovranno lavorare gratis, fargli imparare in molte facoltà un sacco di concetti e di saperi che riguardano questa società. Se uno studia economia, sicuramente studierà un certo tipo di economia e via discorrendo, ma anche sicuramente come grande opera, nel senso come luogo dove transitano migliaia di utenti che giustificano la vita di servizi anche molto costosi, come quelli che sono dentro la Sapienza, perché riguardano decine di migliaia di utenti, e quindi fare entrare i soldi pubblici che ne conseguono. Quindi è possibile fare un parallelo fra l'università La Sapienza e un CARA dove sono dentro dei rifugiati, gestito da una cooperativa, ad esempio, di Buzzi, messa lì da, insomma, tutto il sistema di Mafia Capitale, che specula sui soldi che pubblici che arrivano a quel centro per la gestione di quel servizio, giusto o sbagliato che sia. Però quel centro lì in realtà non è che esiste per provare a dare più di tanto a far diventare rifugiati quelle persone, ma a tenerle là dentro e a far girare quei soldi lì. Ed è cruda come immagine, ma anche un'università arriviamo a poterla ragionare così, cioè non più soltanto a dire, vabbè, ma si sta perdendo completamente quel ruolo di formazione, ma forse non c'è proprio nessuna intenzione che per certe persone, certi certi personaggi che lavorano dentro questi atenei non si preoccupano minimamente di questo, ma si preoccupano solo di tenere in vita questo quest'altro aspetto qui, che fa sì che le battaglie dentro l'università, fra l'altro, si colleghino in maniera forte con tutte le battaglie che si danno su altri temi, perché se si parla della casa e delle risorse che dovrebbero dare alle case popolari e del meccanismo dell'emergenza abitativa, della speculazione legata ad esso e quindi anche delle decisioni del ministro Lupi negli ultimi mesi di approvare un piano casa che dà spazio a questo tipo di meccanismi, si collega in maniera forte con quello che può essere il discorso dentro un ateneo come la Sapienza. E lo stesso avviene su una battaglia come quella contro le grandi opere, ad esempio il TAV, e appunto anche la Sapienza può essere pensata come un meccanismo di questo tipo. Da questo punto di vista chiaramente vi invitiamo sia a leggere l'inchiesta dell'Espresso sia a leggere l'articolo che abbiamo prodotto come collettivo universitario, che prova a prendere parola su questo tema, su cui appunto spesso appunto poi lasciamo prendere parola soltanto a chi fa sopra un'inchiesta, come se gli studenti dormissero e non sapessero ciò che gli succede attorno, invece lo sanno bene. Ma appunto la soluzione a tutto ciò è probabilmente capire che dentro l'università avvengono meccanismi molto simili all'esterno, che dobbiamo iniziare a combatterli anche tutti insieme. E da questo punto di vista ci sembra molto importante una mobilitazione che è stata lanciata nella città di Roma sotto al Ministero delle Infrastrutture per questo sabato, ministero appunto simbolo di questi meccanismi, ministero dove risiedeva fino a pochi giorni fa Lupi, che si è dimesso in una dinamica comunque che chiaramente a noi non lascia assolutamente soddisfatti, ma su cui poniamo una domanda alla città: se n'è andato Lupi, cosa succederà dopo? Chiaramente chi verrà ci aspettiamo facilmente che sia parecchio in continuità con le politiche di Lupi. Il governo Renzi, fra l'altro, con questa operazione prova a dire che Renzi rappresenta il volto comunque pulito di questo paese, mentre sappiamo che continua a tenersi al governo personaggi come Poletti, che stati ritratti al tavolo con tutta la mafia delle cooperative, di cui lui è proprio il simbolo. Quindi, senza dilungarci troppo, pensiamo che la chiamata che è stata fatta una piazza chiamata della dignità contro il sistema delle grandi opere, che rivendichi un utilizzo delle risorse che non sia quello di metterlo in mano a questo meccanismo, ma vogliamo imporre di riprenderci ciò che ci spetta. Allora, diciamo, come Sapienza in Destino, invitiamo tutti e tutte a partecipare a questa piazza e noi chiaramente ci saremo, soprattutto dopo, a maggior ragione dopo tutti questi ragionamenti che in qualche modo ci facciamo quotidianamente, e che queste inchieste in realtà un po' ci aiutano a riprendere. E quindi pensiamo che sia molto importante provare anche soprattutto contando che fra un mese verrà inaugurato Expo, che è proprio il coronamento di questo meccanismo, che parla alle università, parla ai giovani e gli prova a dire: nonostante Lupi si ruba tutti questi soldi e il figlio gli trova un posto fisso, gli basta una chiamata, tu giovane, magari anche laureato, magari anche iperformato, meritevole secondo questa società, vai a lavorare gratis per Expo, che un posto lo troverai. Poi dentro Expo c'è gente che ruba milioni di euro, invece c'è chi deve lavorare gratis. Ci sembra che la misura sia colma da questo punto di vista, oltre a dire che noi gratis per Expo non ci lavoreremo né invitiamo nessuno a lavorare gratis, ma a venire in questa piazza e a portare lì la propria rabbia contro questo meccanismo. Ora appunto magari vi lasciamo di nuovo un po' di musica e poi quando ci ricolleghiamo proviamo a ricollegarci con i compagni degli studenti medi per sentire come va l'assemblea pubblica nel liceo Virgilio. Yeah, yeah, this big M1 right here holding it down for my people, army crew. International African Revolution in the house. Know what I mean? The first thing I gotta say is Roma my teacher. If you know what that means, let's mix it up. There's only one way we gon' win this. Solidarity. Se il vento urla contro, io urlo contro il vento. E cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento con una rabbia dentro, messa in bella mostra. E a Adesso Roma è nostra e come batte il cuore. Per via del corso in piena, nel fumo delle fiamme si è spezzata una catena. Poi via in periferia nel gelo, mani intirizzite. Ma quanto è bella Roma, allora adesso voi che dite? Io la amo, nove vite, ho una banda planetaria. Con Rom Romani siamo dentro un'ex concessionaria. Italiani, peruviani, eritrei e marocchini. Abbiamo casa, dolce casa qui, come cambiano i destini. Siamo in occupazione, occhiate di avversione verso la PS, ICC, accorsi col plotone. Prima di sgomberarci, sgomberatevi il cervello. Noi siamo la comunità, toglietevi il cappello. Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate, si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì. Ce n'è un miliardo qui di stelle, ora facciamo i conti. Noi siamo belli matti come un branco di migliaia di bisonti. Ora tutti pronti, senti che racconti. Dal canalone al babuino, ai vosci a via due ponti. Togli il respiro qui, ora raccogliamo i frutti. La città è avvelenata, ma non ci ha mai distrutti. E quando scappano tutti, noi mettiamo la ciccia. Ora accendo la miccia di una Roma meticcia. Io metto la faccia e questo cuore sembra di un marziano. Questa banda mette brividi e mi fa artigiano. Con queste mani costruiamo nuovi spazi vitali. Vengo dai medi, dalle sedi, dai centri sociali. Capaci di piangere ancora, grandi emozioni. Abbiamo dei sogni, senza troppe illusioni. Coraggio, siamo artisti. Coraggio agli attivisti, sempre in guerra. Contro i razzisti, Porsche, post-fascisti. Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate. Si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano. Sono aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì. Claro que sí. Underground, Garbatella, working class, D Street, per Tuffello, per Torbella, Assalti, B Street, San Lorenzo, Tor Sapienza, 100 celle, Equi, Roma meticcia, claro che sì. Magazzini di Cassa Albertone, Portonaccio, New School, Perpigneto, Spinaceto, Africano, Old School, Prima Valle, Lamaro, Campobasso, Street, qui Roma meticcia, claro che sì. Buongiorno a tutti e tutte di nuovo, siamo qua da Sapienza Clandestina sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e sono le ore 11. Adesso come secondo argomento di questa trasmissione andiamo a parlare di studenti medi e di quelle che sono le mobilitazioni che stanno provando a mettere in campo da qua le prossime settimane in vista di Expo, su cui abbiamo anche speso due parole poco prima della canzone. E che succede? Dentro le scuole, per fortuna, diversi studenti e studentesse si stanno ponendo il problema di che tipo di campagne far partire in una città come Roma, in una metropoli come Roma, rispetto all'esposizione universale che si terrà a Milano a partire dal 1° maggio di quest'anno. E oggi, appunto, adesso il ragazzo che è in linea con noi ci racconterà della giornata di iniziativa che hanno fatto dentro scuola e l'assemblea di istituto, che aveva proprio come tema Expo, soprattutto alla luce degli scandali che anche raccontavamo, lupi in calza riguardo le grandi opere, e per venerdì avevano calendarizzato un momento pubblico da tenersi dentro il liceo Virgilio per appunto iniziare a discutere a livello cittadino di questa data. E in questo periodo il Virgilio pare essere anche particolarmente attivo, visto che nelle scorse settimane sono stati anche in grado di mettere in campo una mobilitazione sugli spazi nella loro scuola, ma adesso di tutto ciò ce ne parlerà meglio il ragazzo in linea. Ci senti? Sì, sì. Ciao, guarda, io intanto partirei da questa mattina, dal momento che avete fatto dentro scuola, e ti chiederei appunto di raccontarci un po', in vista di questa assemblea pubblica di venerdì, quali sono le problematiche che vi stanno facendo le scuole e come si sta evolvendo la situazione. Certo, allora l'assemblea di oggi è stata un'assemblea molto partecipata, l'abbiamo strutturata diciamo dividendoci in vari argomenti, abbiamo fatto un breve excursus storico affrontando il tema dell'Expo comunque nella storia, poi abbiamo affrontato il tema della formazione, su cui ci siamo spesi molto, anche parlando diciamo del modello Expo nel mondo del lavoro, cioè il lavoro gratuito e tutto ciò che riguarda anche il Jobs Act, e abbiamo poi terminato parlando anche degli scandali che, come avevi detto anche prima te, hanno riguardato Expo, e dopo sono uscite anche tutte queste cose su Incalza e Lupi. I problemi che ci stanno facendo, praticamente venerdì abbiamo chiamato un'assemblea pubblica per affrontare il tema Expo anche con gli studenti di tutta Roma, però diciamo sono uscite una serie di notizie riguardanti il nostro istituto, per cui non siamo partnership ufficiale di Expo, ma abbiamo appoggiato una serie di progetti organizzati da Expo, e quindi non ci hanno permesso di fare l'assemblea pubblica all'interno del nostro istituto come avevamo richiesto in modo ufficiale, appunto perché abbiamo la nostra scuola, la nostra preside in primis, come aveva già dimostrato, poi dopo ne parleremo, per cui ci siamo spesi diciamo in questa primavera, quindi sulla nostra succursale, per una serie di interessi personali non ci permette di fare una serie di cose all'interno del nostro istituto, ma noi non ci stiamo e stiamo combattendo per questo. Sì, mi pare evidente appunto che poi quando si vanno a contestare riforme come la buona scuola, uno dei anche delle bandiere di quest'autunno è stato appunto il ruolo che iniziano a assumere i presidi riforma dopo riforma dentro le scuole, che è sempre più quello di dirigenti scolastici veramente quasi con l'elmetto, che impediscono di attaccare striscioni dentro scuola, impediscono volantinaggi, e se uno in una scuola attiva come il Virgilio prova a costruire un momento di dibattito pubblico sull'Expo, che quantomeno, cioè, visto gli innumerevoli scandali delle ultime settimane, visto che migliaia di vostri coetanei, di nostri coetanei andranno a Milano con le scuole piuttosto che con progetti universitari a partecipare a questa grande farsa, almeno poterne discutere tra studenti e studentesse e dovrebbe essere il minimo garantito. E io quello che ti volevo chiedere appunto è cosa pensate di fare, se oggettivamente la scuola vi chiuderà le porte in faccia in quel pomeriggio e non riuscendo quindi a accedere nell'istituto, se avete in mente di costruire questa assemblea da un'altra parte o di creare un momento di mobilitazione. Allora, le idee sono varie, da questo punto di vista ci dobbiamo ancora consultare tra di noi, però l'idea è di cercare ugualmente di farla nei pressi del Virgilio, o se ci riusciamo diciamo in modo non concesso dalla nostra preside, all'interno dell'istituto. Queste sono alcune idee che sono uscite, comunque, per non piegarci ai diktat di questa presidenza che ci sta imponendo una serie di decisioni senza chiedere diciamo la nostra consultazione, anche dal punto di vista, per esempio, sono uscite una serie di notizie dal punto di vista del nostro sito, il sito del Virgilio, che prima era un sito appunto gestito sia dagli studenti che dalla preside, ma anche dai professori, in cui gli studenti pubblicavano anche una serie di progetti che promuovevamo noi, ma questo sito è diventato un sito governativo negli ultimi mesi, quindi una serie di eventi che stiamo portando avanti all'interno della nostra scuola non vengono più pubblicati. È una serie di iniziative che noi invece vorremmo che fossero pubbliche, fossero aperte a tutti il più possibile. Purtroppo non ci sono concesse una serie di cose, e quindi noi non ci stiamo e continueremo a lottare per questo, sia appunto all'esterno dell'istituto, cercando di entrarvi dentro nella giornata di venerdì, oppure rimanendone fuori, ma comunque improntati, diciamo, verso una sfida che la nostra presidenza ci sta mettendo di fronte. Sì, io nel senso provo a farti un'ultima domanda che riguarda sempre quello che state facendo a scuola e che sempre, no, anche in chiave rapporto con i vertici della vostra scuola. Nelle scorse settimane e anche sui giornali è arrivata la vostra mobilitazione in cui 1000 studenti del Virgilio, quindi praticamente l'intero istituto, hanno sfilato per le vie del centro sul Lungotevere e andando a segnalare un edificio che doveva inizialmente essere assegnato alla vostra scuola, ma che invece poi appunto è stato assegnato a un'altra scuola del quartiere di Monteverde. Se ci puoi raccontare un po' la nascita di questa mobilitazione, perché siete andati a rivendicare quella sede lì, e anche come avete fatto a diffondere così tanto la protesta, visto che non è da tutti i giorni in qualche modo riuscire a compattare una scuola su un tema e riuscirla a portare in piazza. E poi appunto anche gli chiedo di parlare, di collegarti a questo sul tema degli spazi dentro le scuole, visto che anche dopo nell'ultima parte di trasmissione parleremo di spazi dentro le università, cosa che portiamo avanti quotidianamente. Chiederti dentro le scuole cosa state facendo in questo. Allora, per quanto riguarda il nostro istituto, il liceo Virgilio, sono da anni che la nostra preside, questa qua, diciamo, la Irene Baldriga, ma anche la precedente, cercavano di ottenere un'altra succursale, perché la nostra scuola è appunto fuori dalle norme e gli alunni, la nostra preside, per una serie di interessi personali li continua ad alzare. Quindi noi da 1500 passiamo a essere 1600 quando l'USR, cioè l'Ufficio Scolastico Regionale, aveva imposto o comunque aveva fatto capire che c'era un limite massimo per gli studenti all'interno di ogni istituto, quindi che doveva essere circa 1200 per ogni istituto, e di cercare anche di evitare la presenza di 2-3 succursali come invece altre scuole hanno. La nostra preside sentiamo che se ne è fregata altamente di questo ammonimento dell'USR, e per appunto interessi personali, anche perché lei è interessata a cambiare diciamo la presidenza da questo istituto a un altro istituto, e quindi per prestigio personale ha un interesse, diciamo, a far vedere che il nostro istituto continua a essere un istituto rinomato e ad avere molti alunni e la maggior parte, cioè, e molte specializzazioni all'interno, quindi il progetto Cambridge e tutta una serie di progetti che lei sta portando avanti. All'interno di questa, diciamo, di questo quadretto già quanto agghiacciante, perché appunto gli interessi personali che vengono prima degli interessi degli studenti e dell'istituto. Si inserisce anche il tema della nostra aula autogestita che ci è stata tolta 2 anni fa con la scusa, diciamo, che del fatto che bisognassero fare dei lavori all'interno del nostro istituto che portassero ad avere un'uscita di sicurezza, che causalmente doveva uscire da esattamente dal punto in cui stava la nostra autogestita, ha portato all'abbattimento di essa, al posto di essa, la costruzione di un'uscita di sicurezza, per l'appunto. Però naturalmente con l'innalzamento del numero degli studenti, per noi è impossibile, cioè siamo chiusi in una scuola in cui non ci sono le aule per studiare, figurarsi per avere un'aula autogestita. Quindi da questo punto di vista non c'è manco un'idea di riappropriazione, diciamo, illegittima di un'aula autogestita, che tuttavia sarebbe un nostro diritto riconosciuto dallo statuto degli studenti e delle studentesse. però noi siamo riusciti in questa primavera a portare avanti una lotta contro gli interessi di questa preside, ma anche contro i presidi manager, cioè questa nuova figura che si sta presentando di fronte a noi, cioè dei presidi che possono letteralmente decidere senza, ormai il ruolo del consiglio d'istituto è diventato un ruolo assolutamente inutile, perché ormai la presidenza prende tutte le decisioni in modo autonomo, perché i professori e i bidelli sono ormai delle vere e proprie marionette nelle mani della preside, e questo ha portato a un vero e proprio problema all'interno del nostro istituto, e siamo riusciti a portare avanti questa mobilitazione perché all'interno del nostro istituto, per l'appunto, la forza e tutti gli studenti siamo compatti per ottenere i nostri diritti e i nostri spazi. Io ti ringrazio, sei stato particolarmente esaustivo. Penso che quello che state mettendo in campo sia fondamentale per far ripartire un'effervescenza dentro le scuole, e a partire dal tema degli spazi, dell'attacco al ruolo che stanno assumendo i professori, fino ad arrivare a tematiche ancora più importanti, se vogliamo, come Expo, lo spreco delle grandi opere. E ci risentiamo sicuramente nelle prossime settimane da questi microfoni per aggiornamenti, e ci vediamo nelle lotte e nelle scuole e nelle università. Certo, grazie, arrivederci. Dopo aver sentito il compagno del liceo Virgilio che ci raccontava di questa importante mobilitazione e della grave risposta che una scuola prova a dare rispetto alla copertura dell'evento di Expo, prima di lasciarvi un po' di musica e di provare a sentire i compagni del collettivo universitario di Bologna, volevamo giusto riportare una notizia in realtà riguardante delle mobilitazioni di cui già abbiamo parlato nelle settimane precedenti. Infatti fuori dall'Italia le università sembrano sicuramente più attive in quanto a mobilitazioni in questi ultimi mesi, e questo ci fa ben sperare anche per il nostro paese, dove ci sarebbe bisogno evidentemente di un grande movimento anche giovanile studentesco che provi a mettere un argine a questa deriva devastante che sta assumendo il mondo della formazione. Infatti in Spagna continua ad andare avanti una mobilitazione contro l'approvazione del 3+2, che aveva già visto nelle settimane scorse manifestazioni e scioperi studenteschi. In questi giorni qua, proprio nell'inizio di questa settimana, è stato lanciato uno sciopero studentesco di 72 ore in Spagna contro l'approvazione della riforma Wert, che in particolare contro il decreto che inserisce il 3+2, che è stato recentemente approvato dal governo. E 72 ore di sciopero che hanno visto indette dai sindacati studenteschi, che hanno visto un'adesione molto importante, si parla dell'85% dell'adesione, e molti tra l'altro fra insegnanti e lavoratori universitari si sono uniti alla protesta. Quindi questa lotta contro la riforma che il partito di Rajoy vuole portare a termine vede diverse università nel paese coinvolte, in particolare l'Università Autonoma di Madrid ha dato vita a una mobilitazione particolarmente forte nei giorni scorsi. Infatti lunedì notte sono stati chiusi gli ingressi di diversi atenei, bloccati e invitando alla partecipazione alla lotta, e in particolare nell'Università Autonoma di Madrid sono stati fatti dei blocchi delle strade attorno, con delle barricate incendiate che riportavano proprio lo slogan "scusate per il disagio", ma la Uni en Huelga, che è l'hashtag della protesta di queste università, sta lottando contro il 3+2. E quindi insomma lanciamo sicuramente un saluto in qualche modo a questa lotta, è molto positivo che tra l'altro questo succede anche a Londra, succede anche ad Amsterdam, che in queste settimane, in questi mesi sono state occupate gli atenei contro le riforme che come in Italia portano sempre di più alla privatizzazione, al definanziamento e a regolamentazioni degli atenei, e soltanto utili appunto a uniformarli a livello europeo in nome di un mercato del lavoro che insomma per noi parla soltanto di precarietà, disoccupazione e lavoro gratuito, quindi insomma un cambiamento del mondo della formazione sicuramente che si allontana dai bisogni degli studenti, che tra l'altro appunto chi porta avanti queste riforme sicuramente neanche conosce. Vi lasciamo di nuovo un po' di musica e ci risentiamo fra qualche minuto per il collegamento con la campagna sulle autoriduzioni da Bologna. Cico conto tutti a posto, mo lo sto bello, io gastro cucci fixi, snaps, vieni via col frisky, spassami, sto di pressami, spingimi in plane, tue techniques, per i mega mix con il frisbee, bella lì, baci, mettimi a giro tipo frisbee, meglio scan split, steak ai tempi del Libano, pisco, poderi tu al pushing, gusci di cremeria, 7G, paradia, sangue mix e via, triple strip, strippo po' strippo Joe, splin po' splin, splattery, flip mostro, freak mostro, sur disco, su nastro, il pasto ciò THS questo aspro minimo fino alla fine di fino dentro casino fuori pellino enuncia pronuncia rapa funcia spaccia blu spappa buncia cico cuccia me muovo capì denuncia sentimi ma non puoi prendermi credi di conoscermi e forse finirà così io sono l'incognita chiusa dentro l'anima si può uccidere, uno già fottuto in pieno, è solo come Nemo. Il difisso, tu mi vedrai in stalanda, quando la bamba blanda, flamba sta branda, plana musica, calma, calma, salva, plasma, alma, salma, se la realtà si difrange in un prisma, è scisma, congiura, impostura, tale quale aggiuda, che odi nella carne cruda, sale sulla piaga nuda, evidentemente l'ingiuria, mo, trasuda, ma snada, vada come vada, masca e nada, uno continua la sfida, messo si divida, 11.000 per 365 è smivida, sfida più sfida più spinto, cita cita la cidia ma incidila, è noisi ma debu debo, lacero il clacet placebo, spasmi di plastica in capsula cerebro, cerbero, baci e bracci, non si piange, cico, non si tange. Sentimi, ma non puoi prendermi, credi di conoscermi, e forse finirà così, io sono l'incognita, chiusa dentro l'anima, e non si può uccidere, uno già fottuto in pieno, è solo come Nemo. Non mi sai, uno solo mi senti, suono mo, sono mo, sono mo, vedi vedere mio amico, cico, dio, tipo, vado se gino, se no triplo, sfilo, squillo, tiflo, streppo, jackpot, jackpot, sangue mo, demo, gremo, beccami sto promo, sicco camo, un poco loco, lobo, strobo, cico percepisco, po, tienimi sopra, l'onda, sfonda, sonda. Sentimi, ma non puoi prendermi, credi di conoscermi, e forse finirà così, io sono l'incognita, chiusa dentro l'anima, e non si può uccidere, uno già fottuto in pieno, è solo come Nemo. Sentimi, ma non puoi prendermi, credi di conoscermi, e forse finirà così, io sono l'incognita, chiusa dentro l'anima, e non si può uccidere, ho già fottuto in pieno, è solo come Nemo. Bella lì, pisco, frizz, frizz, pis, pinto come tinto, da bibo, skonken, fonken, bang bang, fanku. Torniamo di nuovo in onda qui dai microfoni Radio Onda Rossa, ricordiamo state ascoltando Sapienza Clandestina, un programma d'approfondimento e dibattito sul tema del mondo della formazione e non solo. In questo momento abbiamo collegato con noi un compagno del CUA di Bologna per parlare delle campagne che stanno portando avanti ormai da diversi mesi sulle autoriduzioni che hanno riguardato la mensa per la quale sono riusciti a dimezzare il prezzo del pasto per centinaia di studenti e alle nuove frontiere che hanno aperto, quindi autoriduzioni da farsi dentro mostre importanti e spettacoli teatrali, come è avvenuto la scorsa settimana per la mostra di Escher e come hanno fatto ieri sera a un nuovo spettacolo teatrale. Ma adesso meglio di noi ce lo potrà raccontare il compagno in collegamento da Bologna. Ci senti? Sì, ciao a tutti e tutte. Ciao, guarda, io inizierei appunto da queste campagne di autoriduzioni, da come in qualche modo è venuta l'idea e come si sono evolute nel tempo e hanno fatto anche presa sulle studenti e le studentesse, siete riusciti in qualche modo a compattare diverse persone, a fargli rendere conto che unendosi e essendo anche diverse decine si può ottenere dei lauti sconti a mostre, spettacoli teatrali o tutti i giorni alla mensa del proprio ateneo. Ma sì, infatti tra l'altro adesso stiamo proprio preparando a fare i preparativi in università per appunto andare in mensa anche oggi a fare quest'altro passaggio di autoriduzione, e parte proprio dalla mensa il discorso, parte ormai un anno e mezzo fa, appunto a partire proprio dal caro mensa, che qui a Bologna credo, non so se lo sapete, ma c'è la mensa universitaria più cara d'Italia, no? Dove un pasto completo costava inizialmente 6,85 euro, quindi quasi 7 euro, che è un prezzo da ristorante, no? E quindi è iniziata questa campagna, in realtà addirittura ormai nella primavera del 2013, inizialmente con dei pasti serviti qua in zona universitaria da noi, poi con le prime occupazioni della mensa in cui inizialmente servivamo noi i pasti, e poi si è deciso, no, col progredire della campagna, di fare a dicembre del 2013 il primo passaggio di autoriduzione. Poi diciamo che appunto qui l'avvertenza della mensa, no, ha fatto dei passi in avanti, no, con la questione dell'autoriduzione. Chiaramente anche la governance universitaria, l'azienda regionale per il diritto allo studio, qui si trovano in difficoltà, no? Perché la mensa qui a Bologna è appaltata da anni a un privato che si chiama Elior e che appunto sulla mensa deve fare profitti, no? E quindi qui c'è tutto il discorso della svendita del welfare studentesco, del welfare universitario e appunto della sua dismissione. È in questo che si inserisce poi il significato politico della campagna, no? E diciamo che quindi c'è poi una difficoltà anche da parte nostra, in realtà, anche poi nell'ottenere l'abbassamento del prezzo, ma ormai le autoriduzioni che abbiamo portato avanti da appunto un anno e mezzo a questa parte sono ormai decine, penso che faccio anche fatica a contarle sulle dita delle mani, penso che siano veramente ormai tante autoriduzioni, e di sicuro, seppur non si sia ancora riusciti a ottenere la riduzione, cioè a inserire i 3 euro che noi proponiamo nel menù, come menù del pasto completo della mensa, tuttavia siamo riusciti a legittimare questa pratica, quindi ormai basta prendere su da università, andare in mensa e proclamare l'autoriduzione, e appunto l'autoriduzione si fa anche molto tranquillamente, quindi una pratica che in tutti questi mesi si è legittimata. Naturalmente anche per la controparte questo è un problema, perché sulla mensa universitaria ciò che andiamo a porre è talmente legittimo, no, che appunto è anche difficile immaginarsi risposte anche poliziesche o insomma repressive, quindi è tutto un gioco molto delicato in cui siamo andati a attaccare una di quelle pieghe che la governance universitaria non riesce più a risolvere a causa dell'avanzare della crisi e dei tagli, e in questo stiamo appunto legittimando queste pratiche. Quindi a partire dalla mensa poi abbiamo anche spostato il discorso sul piano delle autoriduzioni nel campo culturale, perché infatti come l'abbiamo analizzato, che gli studenti e più in generale in realtà questo soggetto giovanile più ampio che travalica anche i muri delle nostre facoltà, no? Che noi l'abbiamo definito spesso come un soggetto che sta ai bordi tra università e metropoli, con l'avanzare appunto della crisi, dell'impoverimento, la compressione dei salari appunto per precari e precarie, si trova a dover fare sacrifici, no? E a rinunciare a dei primi, iniziano a cadere certi tipi di bisogni. chiaramente i primi a cadere sono quelli più legati chiaramente all'ambito culturale, no? Se uno deve decidere che cosa fare del suo magro stipendio, insomma del suo piccolo reddito, magari derivato da un piccolo salario, da un lavoretto, da una borsa di studio, chiaramente deve dedicarlo, no? Lo dedica ancora, no? Finché i redditi familiari continuano a tenere anche le famiglie, poi naturalmente facendo sacrifici, lo dedica ai bisogni primari, non di certo a mostre culturali o insomma iniziative culturali sempre più costose e quant'altro. Quindi abbiamo deciso appunto che probabilmente su quel fronte lì, oltre che la mensa universitaria, su cui era il prezzo stellare, no, a legittimare una pratica di autoriduzione, su quel fronte lì poteva essere un terreno di lotta molto fertile. Quindi abbiamo deciso insomma di fare le prime autoriduzioni qua al Teatro Comunale, dove dopo alcune iniziative di lotta, di denuncia pubblica, si è aperto un piano di trattativa e siamo riusciti a forzare la mano, ottenere gli ingressi per studenti, studentesse, insomma giovani e non solo, a 5 euro. Quindi dopodiché poi fatte queste prime autoriduzioni al Teatro Comunale, che tra l'altro è qua in zona universitaria a Bologna, abbiamo colto subito la palla al balzo, no? E l'occasione è stata la mostra di Escher, mostra molto pompata dai media locali, mostra poi assolutamente insomma, un evento culturale molto commerciale, portato in città, c'è stato anche a Roma se non sbaglio da poco, no? Da questa milionaria Artemisia Group, quindi un'azienda sempre privata, no? Dove il biglietto per studenti universitari e insomma giovani sotto i 30 anni è di 11 euro. E a partire da questo abbiamo costruito appunto questa autoriduzione anche alla mostra di Escher, dove appunto presentandoci lì in più di 100 studenti, bloccando gli ingressi, siamo riusciti a ottenere questo ingresso a 3 euro, e anche lì naturalmente sfruttando la debolezza di una controparte che su un prezzo così esorbitante non può insomma non può permettersi neanche di fare atti di forza, essendo richieste legittimate, partecipate e costruite. E questo è un po' il percorso. Poi adesso siamo nel mezzo dell'ultima settimana di iniziative, almeno per ora naturalmente, e ieri abbiamo autoridotto un ingresso in un altro teatro cittadino abbastanza prestigioso, che è l'Arena del Sole, in pieno centro a Bologna, sempre a 5 euro, e tra poco, tra mezz'ora saremo di nuovo in mensa a fare un'altra autoriduzione, e domani l'ultima di questa settimana di autoriduzioni sarà in un altro teatro sempre del centro cittadino. C'è poco da dire, insomma, c'è soltanto da provarsi a organizzare anche qua a Roma, evidentemente, per provare a dare vita a iniziative del genere. Infatti ti ringraziamo per l'intervento e per il racconto della vostra campagna. Volevamo dare spazio a questa iniziativa molto interessante che state producendo, partendo insomma dalla campagna che seguiamo da tempo di Occupy Mensa, dove avete portato a questa interessante autoriduzione in mensa a Roma. Paradossalmente la mensa forse è una delle poche cose che in base al reddito viene modulata, e per i redditi bassi effettivamente costa poco, ma l'accesso alla cultura in una città come Roma, una città dove poi cinemi, mostre ce ne sono tantissime, sicuramente può essere un tema di attacco di particolare interesse. Quindi questo può essere un primo spunto, un primo momento di confronto, e poi speriamo insomma di riconfrontarci quando anche noi avremo in qualche modo iniziato ad aggredire questo tema qui. Quindi magari ti lasciamo per la prossima autoriduzione a mensa, non vi facciamo perdere il pasto, e vi salutiamo e vi ringraziamo per il collegamento. Grazie a voi. Ciao. Quindi insomma, come ripeto, un interessante spunto di lotta a una campagna che sta riuscendo, fra l'altro nel territorio bolognese, sicuramente un territorio di particolare interesse, perché dove l'università si dà proprio come zona, come quartiere dentro una città molto piccola, incentrata molto su quell'Ateneo, che appunto ha anche dei luoghi facilmente raggiungibili e dove si danno appunto tutti questi tipi di eventi. Ma anche nella città di Roma magari sarà interessante, lo diamo come spunto sia nostro come collettivo, ma in generale anche a chi ci ascolta, di iniziarci ad organizzare per non pagare prezzi così alti sulla cultura. E effettivamente questo, mi dispiace che magari il compagno l'abbiamo salutato, perché poteva essere uno spunto interessante anche per ragionare insieme. Nella città di Roma ad esempio l'università e non solo si organizzano già alcuni, un gruppo di cinema, ora non ricordo precisamente, si organizza proprio per una cosa, l'altro che si insomma, consigliamo anche, perché è anche un po' una svolta, almeno un film, due o tre film al giorno che fanno a 3 euro e guarda un po', le vendono anche alla Sapienza, nel botteghino della Sapienza, botteghino collegato con piccole associazioni studentesche più o meno politicizzate, sicuramente interne al meccanismo dell'università, e quindi chiaramente è un'iniziativa che prova un po'